in primo piano. È Bossi che ha preso tutte le prime pagine dei giornali più o meno con questo annuncio: ora vogliamo le banche del nord. E a dire la verità, il Sole 24 Ore apre sempre sulla Grecia. Grecia, l'accordo non basta, i tassi tornano al 7%, ma subito sotto Bossi, uomini della Lega nelle banche del nord. Per il resto, guardate qui il Corriere: vogliamo le banche del nord. Repubblica e il Giornale hanno lo stesso titolo: Bossi, a noi le banche del nord. E poi vuole pure le banche il Riformista, il Manifesto: un po' di banche, giocando sul fiume Po. Insomma, molti titoli di apertura dedicati a questo. Allora, visto che è il tema del giorno di politica e finanza, andiamo a scoprirlo sul Sole 24 Ore: OPA di Bossi sulle banche del nord. Oggi il Sole 24 Ore, leggetelo molto attentamente a pagina 5. Perché? Perché ci sono tutti i nomi del risico bancario sul quale punta il Carroccio. Marco Alfieri: uomini del Carroccio in corsa per il risico. Parole forti quelle del senatore, tanto da mandare in fibrillazione un pezzo di establishment bancario alle prese con i rinnovi di Intesa San Paolo. E infatti poco dopo la sparata bossiana è stata ufficializzata, guarda caso, l'indicazione nel consiglio di gestione del tremontiano Siniscalco, che è stato proprio nominato ieri nel consiglio di gestione appunto di Intesa San Paolo. E tra l'altro anche parole che arrivano alla vigilia del difficile parto del bancone profumiano, cioè la grande banca Unicredit. Parole però inattese solo per chi malfrequenta la Lega. Perché? Perché in realtà, scrive Marco Alfieri, in realtà la Lega si sta muovendo da tempo, dopo soprattutto la vittoria elettorale che ha confortato, insomma, dal punto di vista politico la forza della Lega. Si sta muovendo da tempo con i propri uomini nelle varie fondazioni, ed ecco qui per esempio i protagonisti che sono: Giancarlo Giorgetti, vale a dire il presidente della commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, uomo forte della Lega, che starebbe appunto manovrando tutti gli uomini in questo delicato risico bancario. Secondo protagonista per il Sole 24 Ore, Luca Antonini, consigliere per il federalismo del ministro Tremonti, membro di Cassamarca, ma quotati anche l'avvocato Massimo Malvestio, Marco Baga di Banca Profilo. Terzo protagonista Danilo Broggi, perché sul riassetto lombardo, dove ovviamente il peso è molto forte della Banca Popolare di Milano, ma anche e soprattutto della Fondazione Cariplo, un forziere che ogni anno distribuisce 200 milioni sul territorio, dove la presidenza di Giuseppe Guzzetti è blindata fino al 2013, per ora Bossi, scrive Marco Alfieri, dovrà accontentarsi della sua mediazione, ma già ci sono movimenti ovviamente per mettere nuovi uomini. Sempre Giorgetti è l'uomo della Lega e sul suo taccuino sarebbero le prossime mosse quelle di potenziare uomini come Marcello Sala, attuale consigliere di Intesa San Paolo, Danilo Broggi, amministratore delegato di Consip, e Dario Fruscio, il bocconiano Cristian Chizzoli. Insomma, trovate tutto sul risico bancario, anche un commento di Alessandro Graziani sulle fondazioni. La parola chiave sono il ruolo delle fondazioni all'interno delle banche. C'è anche il commento di Stefano Folli dedicato a questo: ciò che Bossi vuole è maggiore potere e identità ben distinta. Come scrive Folli a pagina 18, in fondo Bossi ieri ha voluto ricordare al Presidente del Consiglio che l'alleanza con la Lega è solida, ma non è un dato acquisito per sempre e soprattutto ha un costo che va pagato. Se poi le riforme, anziché un serio progetto parlamentare, diventano un gioco di fuochi artificiali mediatici, anche i leghisti sanno spararne alcuni. Infatti, ecco l'idea del Premier del 2013. Insomma, gli obiettivi della Lega sono pragmatici: una migliore distribuzione del potere finanziario, il federalismo, in particolare il federalismo fiscale, una legge elettorale che Bossi ama così com'è, dati gli ottimi risultati ottenuti dal suo partito, e che non vede ragione di mettere in discussione alla leggera. Insomma, il tema politico del giorno è Bossi, che chiede più potere, anche più uomini nelle banche, in particolare ovviamente nelle banche del nord, dove sono tutte le grandi banche. La politica è un po' ancorata su questo, d'altronde c'è Berlusconi che sta arrivando da Washington. L'altro tema nel dialogo frizzante sulle riforme è che oggi pare che Berlusconi veda Fini. Berlusconi Fini sì, al vertice a nervi tesi, si vedranno a pranzo, si parlerà insomma di riforme, di ruolo, anche di rapporti tra i due fondatori principali del Popolo della Libertà, non sempre rapporti che non hanno sempre rapporti amichevoli, anzi hanno portato a varie tensioni, tanto che il Corriere appunto dice il vertice ci sarà a nervi tesi oggi a pranzo, pare, a Montecitorio. Vedremo come andrà a finire. L'altra notizia di politica, io l'ho pescata da Italia Oggi, chissà se sarà vero, vedremo se sarà confermata, ma sostanzialmente Nichi Vendola, che è stato confermato alla presidenza della Puglia, che qualcuno dice potrebbe essere il leader del centro-sinistra su cui puntare come nuovo candidato premier nel 2013, insomma, che cosa starebbe pensando di fare? Una giunta regionale in Puglia con, udite udite che nomi, come assessori: Emma Bonino, Livia Turco, Fabio Mussi, Gennaro Migliore e addirittura vicepresidente Massimo D'Alema. Perché vorrebbe fare questo tipo di giunta con nomi molto pesanti? Perché sarebbe, secondo Italia Oggi, una sorta di governo ombra o di prova di futuro, futuribile governo, in previsione di una candidatura poi alla premiership nel 2013, di un'eventuale vittoria del centro-sinistra. Insomma, starebbe pensando di fare, e tra l'altro su consiglio di chi? Su consiglio di Walter Veltroni, questa è la ricostruzione di Italia Oggi, starebbe pensando di fare insomma questo governo regionale con nomi sicuramente che hanno meno di regionale, a parte Massimo D'Alema, e hanno più di nazionale, insomma Emma Bonino, Livia Turco, Fabio Mussi, Gennaro Migliore, cioè tre ex ministri, e Massimo D'Alema, vicepresidente. Staremo a vedere se sono indiscrezioni che verranno confermate. La politica è tutta qui. Io voglio ricordare che c'è ancora molto di Afghanistan. Oggi c'è una lettera, per quel che riguarda la cronaca, probabilmente danno tutti per imminente il rilascio di uno dei tre di emergency fermati e arrestati in Afghanistan, vale a dire Mauro Pagani. Questo un po' tutti i giornali lo danno come possibile la sua liberazione. C'è una lettera di Gino Strada oggi in prima pagina di Repubblica. Curiamo tutti, non taceremo mai. Fa una ricostruzione di quelli che sono i fatti. Le accuse: preparavano un complotto per assassinare il governatore. Neanche un demente potrebbe credere a una simile accusa, scrive Gino Strada. Perché si aggredisce e si dichiara guerra a un ospedale? L'accusa che ci viene fatta è vera riguardo al fatto sostanzialmente che noi curiamo anche i talebani. Eccola qui, siamo pronti alla nostra confessione shock, ovviamente è provocatorio Gino Strada, noi curiamo anche i talebani. Certo, e nel farlo teniamo fede ai principi etici della professione medica, rispettiamo i trattati e le convenzioni internazionali, curiamo i talebani come i mujahidini, poliziotti, soldati afghani, sciiti e sunniti, bianchi e neri, maschi e femmine, curiamo chi ha bisogno e crediamo che chi ha bisogno abbia il diritto di essere curato. Ci dichiariamo orgogliosamente colpevoli. L'altra accusa: emergency fa politica. Singolarmente ce la rivolgono i politici. In realtà vorrebbero solo che noi stessimo zitti, curateli e basta, non fate politica. Noi ci rifiutiamo di stare zitti e di nascondere quello che vediamo. Non staremo zitti. La risposta di emergency è semplice. Abbiamo imparato da Einstein che la guerra non si può abbellire, renderla meno brutale. La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. Questo insomma l'intervento di Gino Strada, che dice: è vero, siamo colpevoli se queste sono le accuse che ci vengono rivolte. Tra l'altro sul Corriere della Sera, pagina 9, si legge che le accuse nei confronti soprattutto una delle tre persone, Marco Garatti, il chirurgo di Emergency, sarebbero accuse ancora più gravi. Addirittura l'accusa di avere, secondo un'agenzia di stampa Pagewalk, un'agenzia di stampa afghana, Marco Garatti sarebbe addirittura accusato di essere coinvolto nel sequestro di Daniele Mastrogiacomo qualche anno fa, giornalista di Repubblica, cioè di averlo attirato lì nel sud, averlo fatto in qualche modo rapire in combutta con i talebani e poi di essersi tenuto $500,000 del $1,5 milioni di riscatto che è stato pagato per liberarlo. Insomma, sinceramente, così io... facendo un atto di fiducia mi sembra veramente una stupidata come accusa, una cosa abbastanza incredibile. Però questo è l'accusa: Mastrogiacomo venduto dal dottor Emergency, si legge addirittura su Libero. L'accusa è pesantissima se fosse confermata. Avrebbe venduto ai talebani un giornalista con nazionale italiano per poi tenersi i soldi del riscatto. Ma vabbè. Trovate moltissimo anche sempre della questione della Chiesa. Chiesa sempre sotto assedio, dopo che anche queste frasi di Bertone sull'omosessualità e la pedofilia, questo paragone, la Chiesa si è difesa dicendo si riferiva a ambiti proprio della Chiesa, parlava solo della Chiesa, ma il governo francese contro Bertone. C'è il cardinal Ruini che fa un'intervista a pagina 3 di Repubblica: soffriamo per i nostri peccati, ma il Papa sta facendo pulizia. È una difesa accurata del Papa. Ci sono peccati oggettivamente gravissimi, dice il cardinal Ruini, ma è incredibile, insomma, che sul banco degli accusati c'è specialmente il Papa, una cosa profondamente ingiusta e infondata, perché Benedetto XVI è esattamente il contrario di quel che si vuole fare apparire, dice il cardinal Ruini. E c'è anche una lettera molto critica di Hans Küng, che è il teologo svizzero che ha studiato col Papa, anche molto amico, si può dire a questo punto ex amico del Papa. Fa un durissimo atto d'accusa perché Benedetto XVI ha fallito, è un'intera pagina riportata sempre da Repubblica. L'Italia che sta con il buono di Adro. Allora, questo è il tema del nostro sondaggio, leggo il titolo dal Corriere della Sera. Questo imprenditore che in forma anonima, in realtà ormai si è scoperto chi è, si sa chi è, però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha accompagnato il gesto di aver pagato la mensa ai bambini le cui famiglie non avevano pagato la retta ad Adro, e ha accompagnato questo gesto con una lettera molto dura, un j'accuse molto duro alla comunità, dice ai miei compaesani: ma dov'è la solidarietà, dov'è sparita, io sono un elettore di centrodestra, non sono comunista, ma insomma ci vuole solidarietà, bisogna ricordarci da dove veniamo tutti, io ero povero da bambino e quindi bisogna fare gesti più di bene. Ha detto anche parole molto più dure nella lettera, ha detto i campi di sterminio sono arrivati così, un piccolo passo alla volta, abbassando l'asticella, insomma, del senso della pietà, della solidarietà. Insomma, questo gesto però non è stato apprezzato da tutti. Intanto il Corriere della Sera lo tratta anche con un intervento del regista Ermanno Olmi, perché in questa lettera l'imprenditore ha anche ricordato la parabola, insomma la vicenda narrata dal film L'albero degli zoccoli. E Ermanno Olmi, regista di quel film: quando la generosità fa scandalo, la bontà, scrive Ermanno Olmi, è sempre stata uno scandalo. Dà fastidio a coloro che non la frequentano e per assolversi della loro indifferenza la denigrano, la deridono come un'esposizione di buonismo. Anche per questo la bontà, la generosità, la solidarietà col prossimo che è nella sofferenza, quando è sincera, non si espone ai clamori del mondo, ma ha bisogno della discrezione e del silenzio. Come ci ricordava, insomma, questo il monito di 2000 anni fa: non far sapere alla mano destra quello che fai con la sinistra. Colui che già 2 millenni or sono ci ha lasciato questa raccomandazione alla carità come atto d'amore è stato messo in croce come disturbatore della quiete pubblica, scrive Ermanno Olmi. In realtà questa è l'apertura di due giornali, Libero. Libero parla di Bossi con la banca, ma insomma l'editoriale di Maurizio Belpietro è questo: i razzisti immaginari fanno indigestione alla mensa dei bimbi. Maurizio Belpietro scrive: debbo confessare ai lettori l'estremo imbarazzo che provo in questi giorni leggendo gli articoli dedicati ad Adro. Imbarazzo per i colleghi giornalisti che hanno emesso sentenze di razzismo. Io ho vissuto da quelle parti, Adro non è più razzista di quanto non lo sia Bologna o Rovigo, semplicemente la gente del posto non ci sta a farsi prendere per il naso. Se c'è un servizio a pagamento è giusto che tutti pagano. C'è anche un'intervista al sindaco che sarà nostro ospite, Oscar Lancini, tra l'altro omonimo di quel Silvano Lancini che è l'imprenditore che ha pagato e dice: per carità, non siamo parenti. Oscar Lancini, il sindaco leghista, è molto molto arrabbiato nei confronti di questo imprenditore. Guardi, le dico tutto, è uno che ha sostenuto la campagna elettorale dei consiglieri comunali di minoranza, si vuole sfruttare una vicenda. Poteva essere un gesto nobile se questo signore non avesse scritto una lettera dove ci offende, ma ora che conosciamo il nome le dico di più: è un'operazione politica per mettere zizzania in un paese tranquillo. È l'apertura di questo tema anche del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano ospita un articolo di Dario Fo e Franca Rame. Non paghi, non mangi, ma che razza di gente. Dario Fo e Franca Rame. Digiuno e castigo, scene dalla Nuova Italia, quei bambini puniti e umiliati, altro che paese cristiano. Tra l'altro Dario Fo e Franca Rame scrivono: siamo atei, ma abbiamo studiato profondamente la storia del cristianesimo. Ci viene in mente Sant'Ambrogio che diceva: ricco signore, non t'accorgi che davanti alla tua porta c'è un uomo nudo e tu sei assorto a scegliere i marmi che dovranno ricoprire i muri. Quell'uomo chiede del pane e intanto il tuo cavallo mastica un morso d'oro. Tu vai in visibilio contemplando i tuoi arredi preziosi e quell'uomo nudo trema di freddo di fronte a te. E tu non lo degni di uno sguardo, non l'hai nemmeno riconosciuto. Sappi che ogni uomo affamato e senza abito che viene alla tua porta è Gesù. Ogni disperato è Gesù. E lo incontrerà il giorno in cui si chiuderà il tempo del mondo e lui, quello stesso uomo, verrà ad aprirti e ti chiederà: mi riconosci? Insomma, questo è il tema. Adro è il tema anche del nostro sondaggio. Il tempo ovviamente sempre vola, santa pubblicità. E allora c'è tempo solo per una segnalazione su Repubblica. Arriverà lo scudo contro il telefono selvaggio. Io lo dico, se questa sera, come un giorno su due, ricevo la solita chiamata dell'immobiliare che chiede se c'è un appartamento in vendita nel mio condominio, comincio a pensare a fare una strage. Arriva lo scudo contro il telefono selvaggio. Il Consiglio dei Ministri sta approntando, forse domani, il registro delle opposizioni, dove ci si potrà iscrivere. Lo farò un giorno prima del registro delle opposizioni, che il registro delle opposizioni verrà istituito, dove si potrà mettere il proprio nome, la mail, eccetera, il numero di telefono. Non voglio più ricevere nessuna telefonata di chi mi vuol vendere dal vino all'olio, alle case, alle creme profumate, niente di niente. Grazie. Ci sono i negozi, c'è online, vado lì, compro tutto lì, se voglio. Arriverà questo filtro contro queste telefonate moleste? Chi lo sa se ce la faremo. Ci fermiamo.